in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. È la prima domenica di maggio, mancano poche ore all'inizio sulla carta della cosiddetta fase 2 e quindi su questo, come potete immaginare, si concentrano le prime pagine e direi tutti gli approfondimenti dei quotidiani di oggi. Cominciamo dal Sole 24 Ore, che si concentra su quello che capiterà in particolare a tutto il mondo produttivo delle imprese, ma anche al mondo delle piccole e medie imprese, delle micro imprese, quindi quelle che vengono anche definite imprese artigianali, e quindi il titolo Imprese, trattativa nel governo sugli aiuti a fondo perduto, perché oltre al fatto che da domani tornano al lavoro oltre 4 milioni di persone, per il 72% uomini, lo ricordo, perché questo è un grande tema e lo vedremo anche su altri giornali, c'è anche il tema delle misure nel quello che avrebbe dovuto essere il decreto aprile, che ovviamente è diventato il decreto maggio e che contiene anche tutte queste misure, appunto, di aiuti, di prestiti a fondo perduto o non a fondo perduto, ma comunque garantiti. E quindi confronto PD Movimento 5 Stelle sul piano MEF per gli aiuti pubblici, 4 livelli di intervento legati al fatturato, ma c'è un rischio di distorsioni per gli interventi a favore delle aziende, su 1.900 miliardi autorizzati 1.000 alla Germania. Tutto questo lo trovate poi a pagina 3 con anche gli approfondimenti sugli ammortizzatori, a pagina 5 per quanto riguarda quelli che sarebbero cumulabili con il reddito, la possibilità di cumulare reddito di emergenza, una nuova misura è reddito di cittadinanza, e poi il tema altrettanto sfaccettato perché riguarda gli ammortizzatori sociali ma non solo, di quello che devono fare le regioni, tutti i ritardi delle regioni. Cassa integrazione in deroga pagata solo a 35.000 addetti. Poi vi segnalo dalla prima pagina un articolo che poi un approfondimento di due pagine che trovate alle pagine 10 e 11 di Riccardo Barlam, corrispondente dagli Stati Uniti del Sole 24 Ore, e Ugo Tramballi, che per moltissimi anni è stato inviato della redazione esteri del Sole 24 Ore e ora continua a collaborare con il Sole. Questa doppia firma per un approfondimento sulla geopolitica della pandemia. Il Covid riaccende le tensioni Stati Uniti-Cina. E la foto è stata scattata a Berlino, dove un artista di strada ha ritratto appunto Xi Jinping, presidente della Cina, e Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, che si baciano con la mascherina. Dalla prima pagina anche un intervento di Matteo Salvini, segretario della Lega, che poi trovate a pagina 3, è intitolato Sostituire la cultura del sospetto con quella della trasparenza. Il programma della Lega, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economici dell'Italia e delle sue leggi. Corriere della Sera, così l'Italia prova a ripartire. Le foto sono due, una è stata scattata ieri alle 5 del mattino sull'autobus, il cosiddetto sostitutivo, quello che sostituisce fino a quando inizia il servizio della metropolitana, la metropolitana 1, ed è evidente come ci sono persone, tutte sembrano avere la mascherina, diversi tipi di mascherine, ma sicuramente non rispettano la distanza. Sovraffollamento ieri alle 5. Il grande tema dei trasporti locali, io posso parlare per Milano, sono sicuramente già stati approntati tutte quelle misure possibili come gli adesivi, le indicazioni per dire qui puoi sederti, qui non puoi sederti, con le vie di entrata e le vie di uscita, e se questo vale per le stazioni della metropolitana e se appunto è abbastanza sarà probabilmente abbastanza semplice attuare queste misure, meno semplice sarà gestire la minore entità di posti per chi deve prendere la metropolitana, quindi sarà possibile gestire gli ingressi e le uscite, sugli autobus è molto più difficile. La seconda foto invece è stata scattata per strada ieri in via Marconi a Roma, e si vede che c'erano innanzitutto molte persone, distanziamento sociale va difficile da giudicare, alcune anche senza mascherina. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo Padiglione Italia, la rubrica di Aldo Grasso. Sapete che ogni settimana è dedicata a una persona, a un personaggio. Questa settimana è il commissario Arcuri, il commissario per l'emergenza, che ha ricoperto moltissimi incarichi pubblici, anche è stato presidente di Invitalia, quella società a partecipazione statale che deve gestire per esempio la promozione delle aziende all'estero, gli aiuti delle aziende soprattutto per internazionalizzarsi. È il commissario straordinario per l'emergenza. Ho già ricordato durante la rassegna stampa di venerdì le sue dichiarazioni, le sue risposte a chi gli chiedeva come mai ci sono così poche donne nelle task force del governo. La risposta è stata: perché poche sono le donne ai vertici delle aziende e delle associazioni che poi vengono rappresentate nelle task force. Ho già avuto modo di dire che questo non vuol dire, vuol dire poco, o comunque spiega poco, perché purtroppo spiega solo che in Italia la scelta dei vertici avviene ancora per cooptazione e non per meritocrazia. Ma molto più autorevole del mio è il parere di Aldo Grasso, che da così tanti anni osserva così i personaggi del nostro paese, e vi leggo appunto il suo ritratto del commissario intitolato, sono poche righe, il commissario e l'emergenza narcisismo. I Mosè che ci guidano nella lunga traversata del deserto del Covid-19 non hanno grande carisma e rimediano spesso una comunicazione rattoppata. Colti da improvvisa visibilità, non riescono più a tenere a freno il loro narcisismo. L'ultimo a entrare in scena è stato Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza. Prima ha pasticciato con l'app Immuni, sull'obbligatorietà della quale ha creato il classico comma 22. Sapete che per comma 22 si intende, ed è, viene dal titolo di un romanzo americano, qualcosa che è talmente complicato che non si può risolvere, o nel momento in cui lo si cerca di risolvere o di dare una spiegazione diventa ancora più complicato. E quindi il classico comma 22, aperte virgolette. Se non fossimo tutti protagonisti di una tragedia, dovrei rispondere che è una farsa immaginare che possa uscire solo chi ha scaricato la app. Chiuse le virgolette. Siccome siamo in una tragedia, l'app è dunque necessaria? Poi ha creato il caos sui prezzi delle mascherine chirurgiche. Ognuna deve costare 0,50 euro. Risultato? Supermercati e farmacie hanno ritirato le mascherine perché il prezzo di vendita imposto è inferiore al costo sostenuto per comprarle. Arcuri si è sentito offeso e ha litigato contro chi gli ha fatto notare una probabile frenata della produzione. Voleva passare sotto silenzio l'argomento, ma lo ha nominato, di nuovo aperte virgolette. Avrei tanta voglia di parlare dei liberisti che emettono sentenze quotidiane da un divano con un cocktail in mano, ma non lo farò, chiuse virgolette. È la figura retorica della preterizione, ma che figura è quella di un commissario che di straordinario finora ha solo una vocazione polemica? Con il Corriere della Sera, visto che ieri i giornali non erano in edicola, anche il supplemento del sabato Io Donna, in copertina c'è Kate Blanchett che lancia un segnale di ottimismo. Siamo pieni di inventiva, mi aspetto un boom di creatività. Per il dopo, per la fase 2, diciamo. La Repubblica, che sapete ha da poco più di una settimana un nuovo direttore, che è Maurizio Molinari, ex direttore della Stampa. Il titolo principale, Virus, l'Italia riparte, ma i poveri raddoppiano. Il riferimento è a un allarme della Caritas che in due mesi ha ricevuto sempre più richieste di aiuto. Come sempre ogni domenica, editoriale del fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari per le sfide di Conte, la lezione di Cavour. E poi una foto scattata a Nairobi con un lungo articolo che poi trovate a pagina 19 di Pietro Del Re, Epidemia, la rivolta dell'Africa, perché come abbiamo detto tra l'altro più volte c'è il grande tema appunto della, questa è una pandemia, cioè un'epidemia che si è diffusa nel mondo e forse parliamo ancora troppo poco perché siamo anche giustamente forse concentrati sulle emergenze di casa nostra, parliamo molto poco degli effetti che questa pandemia sta avendo nei paesi con condizioni di debolezza prima, ma precedenti alla pandemia, quindi di debolezza economica e quindi automaticamente dei sistemi sanitari. Con la Repubblica, in edicola come ogni domenica l'Espresso, la copertina molto bella è un collage di vetrine di negozi chiusi e il titolo Fase Zero è un altro, diciamo, richiamo, strillo un po' più che polemico, che mette il dubbio su quella, su come potrà essere la fase della ripartenza. Ripartopoli, imprevisti e probabilità, il gioco della riapertura. La Stampa, anche La Stampa, sapete, da poco più di domenica, contestualmente a Repubblica, ha un nuovo direttore che è Massimo Giannini, che viene proprio da Repubblica. La Stampa, Conte, l'Italia va, non voglio pieni poteri. Infatti questo è il titolo dell'intervista che fa lo stesso Massimo Giannini. Tra l'altro, ricorderete, pochi giorni fa Conte aveva concesso una intervista all'altro neodirettore, cioè a Maurizio Molinari, che della Stampa è l'ex direttore. Questo gioco incrociato di interviste la trovate a pagina 2 e 3 e molto interessanti le domande sulle regioni, perché vi assicuro che sfogliando i giornali di oggi, ma anche ascoltando le dichiarazioni, alcune le sentirete o le avete sentite nei GR, non si capisce davvero se alla fine le controordinanze delle regioni siano effettivamente ammissibili, se che futuro avranno. Sapete, ne abbiamo già parlato anche venerdì, della governatrice della Calabria Iole Santelli di Forza Italia, che ha vinto le elezioni, alle ultime elezioni regionali, che non vuole ubbidire, diciamo, alle direttive nazionali, ma ci sono altre regioni che vogliono comportarsi in modo diverso da come vorrebbe il DCPM del governo centrale, del Premier Conte. Quindi non capisco come potrà finire questa contesa tra Roma e le regioni. Molto interessante la foto pubblicata in prima pagina, che poi rimanda a un articolo alle pagine 14 e 15. È un racconto dalla Gran Bretagna. Nella Gran Bretagna in crisi riesplode la febbre dell'oro. Ci sono infatti cercatori dell'oro con immagini che non vedevamo da tanto tempo, di queste persone chinate sull'acqua dei, in questo caso dei fiumi, con dei setacci in mano, che setacciano appunto l'acqua alla ricerca di pepite. Cercatori d'oro tentano la fortuna nelle acque del fiume Mannock in Scozia. Questa è la foto della prima pagina della Stampa. Il Messaggero: visite e spostamenti si cambia. Ogni giornale ha gli schemi appunto su quelle che sono le regole, però abbiamo appena detto benissimo, tra l'altro naturalmente trovate tutto anche online sui siti dei giornali, Sole 24 Ore compreso, benissimo questi schemi, queste regole, e siamo però stati abituati a vedere ordinanze e moduli di autocertificazione cambiare giorno per giorno. Quindi è un po' una questione di vivere alla giornata per molte cose. Vedremo appunto da domani, mettendo alla prova questo DCPM, che cosa succederà con l'inizio sulla carta di questa fase 2. Quindi il Messaggero: visite e spostamenti si cambia. Come ogni domenica sul Messaggero, l'intervento di Romano Prodi: scossa all'economia, serve un piano dello Stato per rilanciare le imprese. E il grande tema è quello appunto di questo ruolo di nuovo preponderante che sta prendendo lo Stato, non solo in Italia ma direi in tutti i paesi europei e non solo, per aiutare appunto in questa fase di pandemia. Rispetto agli altri giornali, il Messaggero, per la foto di prima pagina, fa una foto diversa. È la foto di Kim Jong-un, che ieri è apparso nelle televisioni del suo paese, la Corea del Nord, poi ripreso da moltissimi altri paesi. È difficile capire a quando risalgano esattamente queste foto, ma dovrebbero servire sono le prime dopo 3 settimane a fugare i dubbi su una malattia prolungata, o addirittura alcuni avevano ipotizzato alla morte del leader nordcoreano. Mistero Kim, ritorno senza mascherina. Prime foto in pubblico dopo 3 settimane, tutti i dubbi degli 007. L'articolo sul Messaggero, la notizia c'è anche su altri giornali, è a pagina 15. Noi ci fermiamo un attimo, sentiremo anche un aggiornamento sul meteo. La crisi diventa occasione per ripensare il futuro. In un illuminante volume, i migliori economisti e gli esperti del Sole 24 Ore si interrogano sulle scelte da fare e i modelli da seguire, con la speranza che dopo la lunga notte della pandemia possa arrivare l'alba del successo sostenibile. Hashtag Lockdown, il giorno dopo. In edicola con il Sole 24 Ore a 12,90€ in più. Tempo in diretta. Previsioni a cura di 3B Meteo. Una buona giornata da Luca Pace di 3B Meteo agli ascoltatori di Radio 24. Ci attende una domenica all'insegna del tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, da segnalare solamente tra pomeriggio e sera instabilità in aumento sull'Appennino meridionale, con occasione per rovesci diffusi e qualche temporale che interesseranno la Campania, la Lucania e la Calabria settentrionale. Per quanto riguarda le temperature, massime in generale calo sulle regioni adriatiche, stabili invece al nord e su quelle tirreniche, con punte di 25-26 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, ulteriori dettagli scaricati l'app gratuita di 3B Meteo. IBM Cloud On Air, speciale Public Cloud, 20 maggio 2020. Torna la diretta streaming dedicata ad IBM Cloud per scoprire tutte le novità in un mercato che in Italia vale 3 miliardi di euro. Sicurezza, openness e scalabilità di livello enterprise. Le caratteristiche principali delle soluzioni IBM a portata di un click. Vai su radio24.it, entra nel box Public Cloud per le aziende e scopri tutti i dettagli. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti, bentornati alla rassegna stampa. Ci mancano ancora alcune prime pagine, tra l'altro ringrazio l'ascoltatore che dice guarda che è DPCM, non DCPM, cioè decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo è l'acronimo appunto di questi decreti con i quali ci vengono date le istruzioni. Sapete anche che sono stati dichiarati, o meglio qualcuno ha accusato Conte di usare uno strumento anticostituzionale, e numerosi costituzionalisti, da Zagrebelsky oggi a Giancarlo Caselli sul Fatto Quotidiano, hanno invece detto che si tratta di uno strumento perfettamente costituzionale. Al di là di questo, quindi, alcune ancora altre prime pagine. Avvenire, l'Italia ricomincia. Ci sono naturalmente anche i dati costantemente comunicati dei contagi, del numero di contagi, del numero dei decessi, del numero dei guariti. Avvenire ricorda dati dei contagi ancora in miglioramento, diffuse le regole pratiche per la fase 2. Dalla prima pagina di Avvenire vi segnalo anche i dati del rapporto Caritas, quello citato anche da Repubblica, raddoppiati in 2 mesi i nuovi poveri. Il Giorno invece ha come foto di prima pagina, ed è giustamente un altro grande tema importantissimo, ed è quello della scuola. E quindi una foto del ministro Lucia Azzolina, ministro dell'istruzione, indicata ed esponente in un certo senso del Movimento 5 Stelle, una scuola a metà, perché se il grande tema è che rispetto ad altri paesi, per esempio la Francia che procederà l'11 maggio, l'Italia ha deciso di non riaprire le scuole, ci sono alcune ipotesi per i campi estivi e soprattutto per quello che succederà a settembre. Il ministro Azzolina: in classe non ci sarà posto per tutti, a settembre alcuni studenti in aula e altri collegati da casa, da qui il titolo Una scuola a metà. Libero, bentornata libertà, tra parentesi, vigilata, nessuno si illuda sulla fase 2, cambia poco da domani, ci sposteremo solo per andare al lavoro, sui mezzi pubblici sarà caos, aggiungo io speriamo di no, le famiglie resteranno con i bimbi a casa, mentre i bonus di Conte rimarranno una promessa. Il direttore Vittorio Feltri ha due pezzi in prima pagina. In uno si esercita nella critica a Repubblica, i rami secchi di Repubblica, e nell'altro, da tifoso di calcio, scusate, dice quanto è triste una domenica senza il calcio. Il Giornale: torniamo liberi, inizia la fase 2, il governo cerca di chiarire ma fa solo confusione, tra limiti vaghi e affetti stabili da domani si potrà fare, tra parentesi, quasi tutto. Conte si scusa, ma gli imprenditori sono furiosi. Il riferimento è al post di Facebook fatto sul suo account Facebook dal Premier Conte, dove ha proprio usato questa parola, cioè ha chiesto scusa in particolare per quei bonus che non sono arrivati agli imprenditori e ha promesso naturalmente che l'iter migliori. Il Fatto Quotidiano, fase 2, i sì e i no. Dopo gli arresti, la semilibertà. Cosa si può fare e cosa no da domani? Congiunti, corse, passeggiate, cibo e spostamenti fra regioni. L'ho già detto e lo ripeto, appunto, ci sono stati già degli aggiustamenti rispetto a quanto annunciato dal Premier Conte e poi da quanto trapelato in questo, non trapelato, ma in questo documento finale di cui sono circolate molte bozze, il termine congiunte, il termine affetti stabili, insomma effettivamente un po' di confusione su questo c'è, ma ripeto, viviamo un pochino alla giornata per quanto riguarda le istruzioni precise su che cosa sarà possibile fare domani, oltre alla certezza che appunto ci sono oltre 4 milioni di persone che possono tornare a lavorare. La Verità, ancora confusione su congiunti e autocertificazioni, ripartenza a metà, caos totale. Dalla prima pagina della Verità vi segnalo anche un articolo di Silvana De Mari. Cari Berlusconi, Meloni e Salvini, poniamo fine a questa follia. Silvana De Mari esordisce in questo articolo dicendo: sono un medico di 67 anni e ricorda la sua esperienza per esempio durante la pandemia di AIDS. Negli anni 80 ero medico ed è arrivato l'AIDS, e perché il titolo Cari Berlusconi, Meloni e Salvini, Silvana De Mari è molto critica, ma lo sono in tanti, cito lei perché appunto ha un'esperienza diretta, innanzitutto ha una formazione scientifica e poi ha un'esperienza diretta come medico nella gestione di emergenze mediche, ed è molto critica appunto sulle provvedimenti che si stanno prendendo sulla base, ci raccontano spesso, di pareri scientifici. Su questo vi segnalo, ma sicuramente lo avrete sentito o qui a Effetto Giorno, questa settimana è stato ospite due volte Crisanti, il virologo di Padova, che è anche consigliere del governatore Zaia in questa fase. Sono ancora una volta, ma è così dall'inizio di questa emergenza, i pareri sono dei cosiddetti esperti, scienziati, virologi, immunologi, epidemiologi o medici di medicina generale, spesso confliggono, e Silvana De Mari per esempio fa appello all'opposizione sostanzialmente, quindi a Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, Salvini della Lega e Berlusconi presidente di Forza Italia, per far cambiare alcune decisioni per quanto riguarda, appunto, si dice basate su pareri scientifici sulla gestione della fase 2. Il Manifesto, scopri fuoco, al via la fase 2, 4 milioni e mezzo di persone tornano al lavoro, sono soprattutto uomini over 50 concentrati nelle regioni più colpite dal virus. Il Secolo XIX ve lo segnalo perché c'è in prima pagina questa idea, un invito ai lettori, il Secolo XIX è il quotidiano di Genova, trovare un nome per il ponte. Sapete che martedì scorso c'è stata la posa dell'ultima campata del ponte, la posa, l'innalzamento, quindi il ponte di Genova sarà presto utilizzabile dalle macchine e dai mezzi anche a due ruote, ma questa cerimonia simbolica ha segnato anche la decisione appunto per ora di non dare un nome al ponte, quindi l'iniziativa del Secolo XIX, l'invito ai lettori, trovate un nome per il ponte. Il titolo è lo stesso della Stampa, perché sapete che la Stampa e il Secolo XIX sono controllati dallo stesso gruppo che è poi il gruppo Gedi, e quindi Conte, la patrimoniale non ci sarà, parchi e case, le regole della fase 2, è la stessa intervista che appunto trovate sulla Stampa di Massimo Giannini. Andiamo alle pagine interne dei giornali, e quindi torniamo sul Sole 24 Ore. La fase 2, quindi vi dicevo, alle pagine 6 e 7 tutti gli approfondimenti, l'industria riparte, però qui c'è anche il grande tema dell'export, e questo è un tema molto interessante perché dicevamo ripartenze diverse in paesi diversi, quindi si pone un problema anche di competitività, perché se alcune aziende in alcuni paesi possono riprendere e in altri no, si possono anche creare delle distorsioni. Ne ha parlato anche il commissario alla concorrenza Vestager in più di un'occasione. Chiara Bussi fa il punto. Domani la grande riapertura delle fabbriche, timori sulla domanda, lo scenario, l'80% delle aziende meccaniche prevede 6 mesi di contrazione, e sapete che la meccanica è una delle voci più importanti non soltanto per la parte manifatturiera del PIL del nostro paese, ma anche per l'export. Un approfondimento di Antonella Olivieri su quello che succederà invece sui mercati. Sapete, l'ultimo venerdì, che era festa qui ma non negli Stati Uniti, c'è stato un altro tonfo a New York degli indici di borsa, e quindi un approfondimento dovuto su come si stanno muovendo le varie borse. Per esempio, ci racconta Antonella Olivieri a pagina 9 del Sole 24 Ore, borse, sale la febbre da delisting, cioè la decisione di togliere un titolo dalla borsa. Londra studia un pedaggio. Con i listini che hanno recuperato solo parte di quanto perso, resta elevata la convenienza dell'OPA per lasciare la borsa, cioè l'offerta pubblica di acquisto, che è appunto l'operazione finanziaria che prelude al delisting. Mentre in Italia per ora si muove solo Gedi, di cui abbiamo appena parlato, che naturalmente fa capo alla famiglia Agnelli, la City corre ai ripari. E poi vi dicevo l'articolo richiamato, in realtà sono due articoli, anzi sono più di due articoli, ma sono due pagine, con articoli di Ugo Tramballi, Riccardo Barlam, Gianluca Di Don Francesco e Stefano Carrer sulla geopolitica del Covid. Quindi da una parte il ruolo della Cina, Ugo Tramballi ci spiega, high-tech e commercio mettono Pechino davanti al mondo, e poi il tema della cosiddetta nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina, il Covid riaccende la guerra fredda tra Stati Uniti e Cina, ci racconta Riccardo Barlam. E poi per la questione dei dazi, sembrava un po' risolta questa guerra fredda dei dazi, tensioni che mettono alla prova la fragile tregua commerciale. La sezione Lifestyle, come ogni domenica sul Sole 24 Ore, Maria Teresa Manuelli ci racconta drink, poesie e musica, la movida a domicilio, un altro aspetto del lockdown. Consumi e coccole, i locali chiusi rivoluzionano il business dell'asporto e della consegna dei prodotti a domicilio. E poi la pagina invece dedicata a sport e business, molto interessante, sono due articoli, uno di Tiziana Pickler sugli e-sports, cioè gli sport elettronici, le competizioni virtuali sbarcano sui palinsesti televisivi. E poi un punto di Marco Bellinazzo sulla possibile ripresa della Serie A e il rebus del protocollo sanitario sulle partite. Dal Corriere della Sera vi segnalo i due approfondimenti. Da una parte Milano, con la foto che abbiamo citato, erano in 44 ieri mattina alle 5 su un bus sostitutivo della metro 1 a Milano, e con 44 persone a bordo, vi assicuro, su un autobus normale, non di quelli tra l'altro particolarmente lunghi come sono alcuni degli autobus di Milano, non può essere rispettato il distanziamento sociale di un metro. E poi invece la foto di Roma, troppa gente a passeggio senza rispettare la distanza, il timore dei liberi tutti. È molto interessante la pagina 15 del Corriere della Sera. Da una parte il tema dell'appello, della chiamata alle armi, potremmo dire così, contro il virus di Bill Gates, dove l'arma principale, per secondo Bill Gates, resta il vaccino. Sapete che Bill Gates non è più da anni impegnato attivamente nel colosso che ha fondato la Microsoft, si occupa con la fondazione intitolata a lui e alla moglie Melinda soprattutto di eradicare alcune malattie, sta combattendo una battaglia in questo senso per la malaria, che sapete è una malattia che non ha ancora un virus e uccide ancora milioni di persone ogni anno. Conte chiama Bill Gates, noi ci siamo, perché l'idea di Bill Gates è di costituire proprio una specie di consorzio mondiale per trovare un vaccino. In realtà, come sapete, ci sono già tantissimi studi in giro per il mondo, alcuni sono anche già in fase di test sulle persone, per esempio quello sviluppato da Oxford, tra l'altro in collaborazione con un'azienda di Pomezia. Ma Bill Gates dice, spinge per una collaborazione ancora maggiore. L'impegno dell'Italia e gli elogi del filantropo Merkel, salvare milioni di vite, compito tra i più nobili, al via la raccolta, è quello che sì, l'obiettivo è di avere almeno 7,5 miliardi per la ricerca. E poi un'intervista di Alessandra Rachia a Enrico Alleva, che è uno degli etologi più famosi al mondo. ha pubblicato oltre 200 articoli su riviste internazionali, che dice: i cani possono sentire l'odore del coronavirus, si stanno facendo alcuni studi a Milano. Non sorrida nessuno a questo titolo, perché in realtà si è scoperto, ma forse molti di voi lo sanno, che i cani possono sentire e vengono già usati. Sapete che hanno un olfatto infinitamente più sviluppato di quello degli esseri umani e di tantissimi altri animali. Possono sentire, per esempio, l'odore di alcuni tumori. Certo, loro non se ne rendono conto, quindi vanno fatti degli studi e bisogna trovare il modo di comunicare, di una via di comunicazione tra i cani e i ricercatori. Però esiste questa possibilità, cioè che sentano l'odore del coronavirus. Per i nostri animali è un momento irripetibile. Vi segnalo anche, sempre al Corriere della Sera, un'intervista fatta da Paolo Valentino a Berlino da Filippo Grandi, che è un diplomatico italiano ed è commissario ONU per i rifugiati, che dice: se non interveniamo ora su guerre e paesi poveri, il virus tornerà a colpirci tutti, naturalmente. Ci lasciamo un attimo per una pausa sulla viabilità. Strade in diretta. Bentrovati, una buona mattinata, una buona domenica a tutti gli ascoltatori. Traffico regolare scarso lungo tutta la penisola, non si verificano particolari problemi. Ricordiamo che sulla A32 Torino-Bardonecchia fino alle 8 di questa mattina resterà chiuso per dei lavori lo svincolo di Bardonecchia, sia in entrata che in uscita, in entrambe le direzioni. È tutto per questo primo appuntamento, grazie per l'attenzione, a più tardi. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, WhatsApp o SMS, all'ascoltatore che dice: la malaria non è un virus. Non credo che di aver detto che la malaria è un virus. La malaria è una malattia ed è causata da un parassita. Ho solo detto che non esiste un vaccino per la malaria. Esistono alcune cure, ma non sono sempre disponibili. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche un approfondimento. Abbiamo visto il Messaggero, lo mette in prima pagina, sulla vicenda di Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord. Pagina Guido Santevecchi, che è corrispondente del Corriere della Sera dalla Cina, o comunque ha passato molti, molti anni in Cina, la conosce bene, racconta: Kim torna, 21 foto e una macchia. Il leader ha una cerimonia dopo le voci di morte, un punto sotto il polso destro, segno di iniezioni. Capite come siamo messi per sapere che cosa succede in Corea del Nord, ad analizzare appunto le foto. E ripeto, ci sono molti esperti che mettono in dubbio la data soprattutto di queste fotografie, e anche questo questa stranezza che Kim, notoriamente molto attento alla sua salute, e secondo molti, ma anche qui sono tutti retroscena, ipocondriaco, era senza mascherina. Poi vi segnalo una bella intervista di Chiara Maffioletti ad Ambra Angiolini, che ha, sapete, condotto in un modo anomalo, ma tutto è anomalo in questo periodo, il concerto del primo maggio, che celebrava quest'anno i suoi 30 anni. Per la prima volta in 30 anni non si è potuto svolgere naturalmente dal vivo, ma tantissimi artisti italiani e non solo hanno filmato prima dei contributi. È stata una cosa molto originale, perché ne parlavo proprio ieri con Marta Cagnola, perché anziché fare come in altre maratone di questo tipo, quella per esempio organizzata da Lady Gaga per raccogliere fondi per l'OMS, dove tutti gli artisti si collegavano da casa, in questo caso era un collage di filmati girati nelle città a cui gli artisti sono legati, e Ambra ha fatto un po' da filo conduttore. Secondo me è stata molto brava, ma è stata anche criticata, e da qui l'intervista, e dove dice: al concertone ero senza difese, lasciando andare le emozioni, finalmente ho fatto pace con la TV. Dicevamo, la ripresa della Serie A, interessante un'altra intervista, questa è di Gaia Piccardi, sempre sul Corriere della Sera, pagina 43, al CT Milena Bartolini della Nazionale Italiana Femminile di Calcio, che dice: ma Nessuna donna ai tavoli di lavoro, ma al calcio italiano serviamo pure noi. Questi tavoli di lavoro di cui parlava anche Marco Bellinazzo, di cui parla anche Marco Bellinazzo sul Corriere della Sera, per stabilire come e quando e se ripartire con il campionato di Serie A e delle altre serie, a questi tavoli, ma guarda un po', mancano le donne. Vi segnalo invece dalla Repubblica un approfondimento interessante. Abbiamo citato proprio venerdì l'intervista di Maurizio Landini alla Repubblica su come potranno o dovranno forse cambiare le regole del lavoro, in particolare quelle del cosiddetto smart working o telelavoro, cioè il lavoro non in sede, quindi non necessariamente da casa. E questo approfondimento, pagine 8 e 9 della Repubblica, smart working e contratti, dal governo sia le regole, perché ci devono essere delle regole chiare, non soltanto legate a che cosa vuol dire telelavorare, quindi come misurare il telelavoro, si dice tipicamente non a ore ma a obiettivi raggiunti. Però, per esempio, Rosaria Amato, pagina 9, diritto a disconnettersi, orari e buoni pasto, i nodi del lavoro da casa. Vi segnalo, poi passiamo ai supplementi della domenica, vi dicevo il racconto, pagine 14 e 15 della Stampa, immersi nei fiumi con setacci e stivaloni, in Gran Bretagna torna la corsa all'oro. E poi dal Messaggero un approfondimento su quel tema sul quale però vi assicuro io non sono riuscita a trovare una parola definitiva, sui contrasti tra regioni e Stato. L'intervista a Francesco Boccia, che è il ministro per le regioni, per i rapporti con le regioni: le regole le fissa lo Stato, le regioni devono adeguarsi, però non sta succedendo. E poi, visto che c'è chi è già entrato nella fase 2, in particolare la Cina, un approfondimento, pagina 14 del Messaggero: scuole aperte, ristoranti pieni, la Cina ricomincia dalla fase 2. Sull'Avvenire tanti approfondimenti su quello che sta succedendo negli altri paesi, pagina 6, in particolare Madrid e Francia e anche Austria. E poi questo tema delle carceri, che sono naturalmente uno dei luoghi più a rischio per il diffondersi dell'epidemia, e sapete che c'è stato un cambio della guardia dopo le dimissioni di Basentini, che era stato molto criticato per la gestione di questa emergenza. Carceri, Petraglia a capo del DAP. E poi naturalmente, essendo Avvenire il quotidiano della CEI, due approfondimenti, uno sulla possibile ripresa delle messe, le messe al via entro fine mese, e poi anche un approfondimento invece sulla possibilità adesso di tornare a fare i funerali, pagina 13 dell'Avvenire, tornano i funerali con cautela. All'ascoltatrice che chiedeva un approfondimento dagli Stati Uniti, vi segnalo sempre dall'Avvenire l'epicentro degli Stati Uniti: Trump riapre i suoi campi da golf e confida in 100.000 vittime, perché sapete che le stime precedenti erano di un bilancio ancora peggiore per gli Stati Uniti. Da Libero vi segnalo un intervento di Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia, al momento agli arresti domiciliari perché condannato nel 2019 in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione, poi scarcerato dopo un periodo al carcere di Bollate perché è ultra settantenne, quindi una misura a mio modo di vedere sacrosanta. Però adesso su Libero, che è un quotidiano, lo ricordo sempre, che usufruisce di finanziamenti pubblici all'editoria, ci consiglia in questa rubrica che si chiama La Frustata: computer gratis e un assegno per aiutare le famiglie. Abbiamo ancora pochi minuti, ma ci tenevo a segnalarvi alcuni articoli. Dal Fatto Quotidiano un'intervista a Virginia Raggi, sindaco di Roma: il governo abbia più coraggio, ai sindaci servono pieni poteri, quindi non soltanto i governatori ma anche i sindaci protestano, o almeno lo fa Virginia Raggi. E poi, visto che abbiamo appena nominato il nuovo capo del Dipartimento Penitenziario, dal Fatto Quotidiano pagina 15, chi è Dino Petralia, nominato nuovo capo del DAP, ex procuratore generale a Reggio Calabria ed ex aggiunto a Palermo, o meglio procuratore generale di Reggio Calabria in questo momento, quando appunto è stato appena Nominato è un magistrato antimafia e succede a Franco Basentini, travolto dalle scarcerazioni dei boss causa Covid-19. Ma passiamo ai supplementi della domenica. Come sempre iniziamo da quello del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Amare. E la citazione è questa: amare, sinonimo di essere, verbo difettivo che conosce solo l'infinito presente. Scrive Ravasi, suggestiva questa classificazione grammaticale simbolica che Claudio Magris propone in un suo racconto fisico-metafisico ad alta tensione intellettuale, intitolato Tempo curvo a Krems. Non è certo il rimando all'esperienza, purtroppo frequente, di amori che durano lo spazio di un giorno, dissolvendosi nell'alba successiva come la rugiada sotto il calore del sole o un sogno al risveglio. Il termine di comparazione è invece l'eterno, che non cade più sotto il flusso tridimensionale incessante del passante presente, del passato presente futuro. L'eternità, infatti, è un istante di perfezione e pienezza assoluta, che non ha più lo sguardo nostalgico su un passato concluso, né la speranza di un futuro ancora assente. L'amore non lo si ha come un oggetto che ti può sfuggire di mano. Nell'amore vi si è, immersi come in un oceano, avvolti e trasfigurati. Per questo, come è stato detto anche da Erich Fromm, l'autentico amare non è sinonimo del verbo avere, che al massimo è da collegare al sesso, bensì è da sovrapporre al verbo essere, perché è uno statuto permanente e definitivo che ti accompagna anche quando dormi. È ciò che confessava l'innamorata del Cantico dei Cantici. Io dormivo, ma il mio cuore vegliava. E sicuramente troverete forse queste parole fin troppo così complesse o difficili, ma chi non si è interrogato su questo mistero che è il momento che stiamo vivendo e che adesso è già finito, e c'è già un passato, e ci sarà un futuro, e sul significato, su come si colloca appunto invece il momento infinito che può essere l'amore. Ma così lo trovo molto stimolante ogni tanto riflettere su queste definizioni che poi nessuno ha in tasca, ma forse questi sono i tempi in cui riflettere anche su queste cose. La copertina vera e propria però della domenica è un articolo di Salvatore Settis, tutto dedicato a Giacomo Boni, grande architetto, del quale è appena uscita una biografia di Miriam Pilutinamer, pubblicato dall'editore romano Erma di Brett Schneider, e si intitola Storia, memoria, archeonomia, scavare nella vita di Boni. La personalità vivace e multiforme dell'ideatore del Parco del Foro e del Palatino e della archeonomia. Sempre dalle pagine del Sole 24 Ore, della domenica del Sole 24 Ore, vi segnalo un ricordo di Angela Vettese, di Germano Celant, grande critico d'arte, grande curatore di mostre, fu anche forse, passerà alla storia anche come il critico d'arte che più si è occupato della cosiddetta arte povera, anzi la definizione l'ha creata proprio lui. Era nato a Genova nel 1940 ed è morto di Covid a Milano il 29 aprile, il notaio dell'arte italiana nel mondo. E poi una recensione di un libro che, confesso, anch'io ho già ordinato, ma non è facilissimo da trovare, anche perché sono chiuse ancora le librerie in molte regioni, ed è una la storia di Trotula de Ruggero, che apparteneva alla scuola salernitana ed è in realtà un medico, ma era una donna, pensate, nel Medioevo, la Sinfonia del Corpo, trattato medievale sulla salute e il benessere delle donne. La recensione la scrive Serena Uccello, femminismo medievale, giustamente intitola, c'è scritto nell'occhiello, i consigli sovversivi di Trotula de Ruggero. La lettura del Sole 24 del Corriere della Sera, come sempre la copertina è affidata a un artista, questa settimana è Abdoulaye Konaté, e come sapete la prima parte, le prime pagine riguardano sempre un grande tema. Questa settimana si intitola L'illusione dell'uguaglianza che questo virus ci ha dato. In realtà uguali purtroppo non siamo, soprattutto una volta che ci ammaliamo, perché la differenza la fa come siamo arrivati alla malattia e a quali cure abbiamo accesso. E vi segnalo in particolare l'intervista di Anna Chiara Sacchi a Philippe Kurilski, biologo e genetista, che dice: questo virus accelera i mali della società. Era purtroppo l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi, ho messo da parte altre cose, ma sicuramente saprete scegliere bene anche voi sfogliando i giornali di oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie a tutti gli ascoltatori, una buona domenica da Giulia Crivelli.